Nel 1700, ancora in piedi il Sacro Romano Impero, questo piccolo territorio chiuso tra Svizzera e Austria non sfiorava neanche i pensieri di re e imperatori. Il poco spazio a disposizione e le scarse risorse hanno messo in moto l'ingegno. La bellezza delle montagne e il segreto bancario, quasi un sinonimo per il piccolo stato, hanno fatto il resto, creando fortuna e fama del Principato. E cosa può mai turbare la pace di questi incantevoli luoghi? Succede che il 14 febbraio scorso, nello stato dove il numero di fondazioni di carattere finanziario tra le 45 e le 50.000 supera quello degli abitanti, che non vanno oltre i 35.000, la polizia tedesca comincia a voler mettere il naso. Perché? Perché una notizia sciocca la Germania. Il numero uno di Deutsche Post è sospettato di aver evaso 1 milione di euro, versandolo, guarda il caso, a una fondazione creata in Liechtenstein da una banca locale, la LGT. Il bello è che non finisce qui, sarebbero circa 1.000 i grandi evasori tedeschi che avrebbero sottratto al fisco fino a 4 miliardi di euro. I tedeschi sono in buona compagnia. Gran Bretagna, Olanda, Svezia e Italia confermano controlli in corso su conti di propri cittadini. Ci sono poi anche Francia, Spagna, Canada, Stati Uniti, Australia e Nuova Zelanda. Le amministrazioni fiscali dei paesi OCSE stanno collaborando. Ma com'è stato possibile fare breccia nel muro della segretezza, fortuna del Principato? La storia è spionaggio allo stato puro. Tutto viaggia su un DVD contenente dati bancari che i servizi segreti tedeschi hanno acquistato per oltre 4 milioni di euro da un ex dipendente della banca LGT del Liechtenstein. Ai tedeschi si sono accodati gli inglesi, che dalla stessa talpa avrebbero comprato per 100.000 sterline una lista di britannici con conti in Liechtenstein. Berlino prima e l'OCSE poi hanno accusato il Principato di favorire l'evasione fiscale con la sua mancanza di collaborazione. Il Principato, dopo una prima risposta piccata, ha annunciato la riforma delle fondazioni finanziarie. Ma da Liechtenstein non sembrano intenzionati a toccare la segretezza. Valeria De Rosa, GR24, Il Sole 24 Ore.